il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. È arrivata l'estate sia dal punto di vista del calendario sia da quello climatico e molte persone andranno in vacanza anche in luoghi del Veneto per conoscere qualcosa di più della nostra regione, in particolar modo dal punto di vista di ciò che offre sotto profilo della gastronomia, dei prodotti tipici. Abbiamo pensato oggi di dedicare questa puntata del Quadrifoglio proprio alla scoperta di questi aspetti del Veneto. Abbiamo invitato quindi un collega giornalista, Maurizio Drago, giornalista esperto di turismo, di prodotti del territorio e di enogastronomia, che scrive sulla rivista Sapori d'Italia e anche collabora ad un nuovo progetto internet che si chiama In Tavola Tour e che è proprio un invito ad andare a scoprire i luoghi dove è possibile assaggiare ancora dei prodotti e delle ricette tipiche. Benvenuto Maurizio. Grazie, buongiorno a voi. Grazie dell'ospitalità. Ecco, volevamo proprio avere da te anche qualche dritta, però intanto se vuoi presentarci un po' il lavoro che stai facendo, in particolar modo per questo In Tavola Tour, che sembra una cosa originale e interessante, che cos'è? Innanzitutto io ormai da qualche tempo collaboro con la rivista Sapori d'Italia e anche con altre riviste dove sostanzialmente parto dal prodotto per arrivare al territorio e questo è stato un po' anche un po' lo spunto che mi ha permesso anche di entrare in questo portale che io invito un po' tutti a andare a curiosare attraverso internet, il portale www.intavolatour.it, dove sostanzialmente spiego, questo è il primo portale del buon mangiare e dei buoni prodotti costruito direttamente dal cliente, cioè l'idea è questa, io come diciamo cittadino, come molti altri, magari mi trovo, adesso parliamo del Veneto in questo caso, in qualche località, nel Padovano piuttosto che nel Bellunese o nel Trevigiano o nel Veneziano, e magari ci troviamo in qualche posto dove vorremmo assaggiare la tipicità di quel posto e magari non sappiamo dove andare. Tutti noi magari conosciamo qualche guida o l'acquistiamo o consultiamo i siti eccetera, però a volte ci sfugge magari quella trattoria sconosciuta dove a un basso prezzo si può mangiare, faccio per dire, l'anguilla ai ferri che ho trovato una trattoria nella zona del delta del Po, l'anguilla ai ferri che è squisita, come in alcune zone ad esempio del Vicentino o dell'Asiago, dove ci sono alcune malghe dove si può acquistare certi prodotti che non sono solo di formaggio ma possono essere anche di miele, ad esempio mi viene in mente anche a Mira che c'è uno spazio dove si acquista il miele, dove c'è il produttore del miele che caratterizza proprio per la bontà di questo miele, ma per citare tantissimi altri esempi di prodotti e delle tipicità del territorio, ed è quello che secondo me il turista o quello che passa a fare qualche giorno di vacanza, ma sempre più ristretti visto che c'è anche questo momento di crisi, ma ed è quello che vuole sfruttare al massimo e cercare anche il territorio e la tipicità. Senti, ma l'enogastronomia può essere veramente un settore per il rilancio, anche per il superamento di questa crisi? Cioè, spesso sono considerati questi prodotti buonissimi, ottimi, ma alla fine di nicchia, che riguardano poche persone, a parte il vino che sappiamo, il Veneto è il produttore principale in Italia, ma che comunque va in gran parte all'estero. I prodotti tipici del nostro territorio realmente possono essere significativi anche dal punto di vista economico? Ma io direi che forse la tendenza è proprio ad arrivare a quello, cioè la crisi ci porta più ad essere attenti e a spendere Vorrei anche ribaltare un po' questo discorso. Mentre adesso i prodotti tipici erano considerati, come giustamente dicevi, prodotti fra virgolette di nicchia, sempre più invece il contadino o il produttore, il formaggio o l'ortolano che in quel dato luogo, in quel dato territorio, in quel dato posto coltiva quel dato prodotto, le banalissime ad esempio patate del montagnanese o del basso veronese, le patate rosse ad esempio, e che sono caratteristiche per gli gnocchi, ecco, magari quel turista che magari che passa per andare, non so, verso il mare, potrebbe fermarsi a prendere anche un sacchetto di patate che oltretutto costano anche meno rispetto a quelle che magari rispetto al negozio delle tipicità dove compri il prodotto a un più alto prezzo. Quindi secondo me si sta tendendo sempre di più a cercare un prodotto dove soprattutto ci sia anche la qualità e la genuinità e che magari ci sia anche meno chimica possibile. Mi permetto di dire ad esempio il salame che è un prodotto che si può acquistare dappertutto, la gente va in cerca del salame tipico, ma perché tipico, più che tipico, genuino, naturale, ma perché ha meno nitrati o meno nitriti e fa sicuramente molto meglio al nostro fegato rispetto oltre a un essere altro salame confezionato, tanto insomma. Buono. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di turismo, ma soprattutto di prodotti tipici del territorio veneto. Lo stiamo facendo con il giornalista Maurizio Drago, giornalista di Sapori d'Italia, una rivista, e del sito internet In Tavola Tour. Ecco, siamo partiti parlando di questo sito internet dove sono gli stessi utenti, diciamo, turisti che possono mettere le loro proposte e quindi far conoscere dei luoghi. Rimaniamo nel Veneto, questo sito mi pare che sia di tematica nazionale. Sì. Quali sono le cose che tu hai già visto che sono state segnalate che magari sono un po' nuove? Già ne hai citate alcune, come l'anguilla nel Polesine. Rimanendo magari sulle zone principali del turismo nel Veneto, quindi la fascia costiera, il turismo estivo intendo, e la fascia montana. Beh, allora, sulla fascia costiera è indubbio che si va in cerca del buon pesce, e quindi in questo caso da Jesolo fino al basso Polesine non c'è che l'imbarazzo della scelta, trovare anche i posti. Basterebbe, ecco, cercare un po' di individuare la trattoria o il posto magari un po' fuori, non dico un po' fuori mano, basta fare, non so, qualche chilometro in più con l'auto per non andare a trovare sempre il classico ristorante che ti propina il classico menù, e lì mai ci si trovano delle eccellenze del territorio. Faccio per dire, prima citavo l'anguilla, ma se si va ad esempio verso Chioggia, io consiglio vivamente di andare a cercare anche un localino dove fanno anche il pesce. Ottimi sono i fasolari, ad esempio, questo, oppure anche altri crostacei che hanno anche un buon prezzo. Come un buon prezzo, io consiglio sempre di andare anche a trovare un buon fritto di pesce azzurro, costa poco, ma sicuramente fa molto bene anche alla nostra vita, perché contiene anche un sacco di omega 3, eccetera, eccetera. E andando verso la montagna? Per la montagna, anche lì, se si va sul Bellunese, ci sono gli arrosticini famosi che li confezionano molto bene, come pure non ci sono solo formaggi, perché il formaggio è un po', certo, è la caratteristica delle nostre montagne. Andiamo da Belluno fino ad Asiago, fino a spostarsi nel Veronese. Alcune, ad esempio, particolarità, ad esempio nel Veronese mi viene in mente, questo sarà un po' verso settembre, ci sono i famosi minestroni di castagne che sono squisiti. Tra l'altro ci sarà un concorso che si farà, posso anche citare anche il nome, promosso dal comune di San Zeno di Montagna, dove verrà premiato il locale dove fanno il miglior minestrone di castagne. È un piatto da assaggiare, è un po' più diciamo autunnale piuttosto che estivo, però ecco, sulla montagna non c'è che l'imbarazzo, ecco, della per concludere selva. Ci sono anche delle sagre, delle feste tipiche che promuovono alcuni di questi prodotti nel Veneto, anche se stanno diffondendo parecchio, forse anche troppo in questi ultimi anni. Sì, forse un po' troppo, ecco, secondo me bisognerebbe cercare di eliminare, ecco, una parola grossa, però cercare, anche perché visto che siamo anche in periodo di crisi, è giusto far lavorare anche un po' il ristorante, un po' le trattorie, e cercare di fare, diciamo, quelle feste o quelle tradizioni paesane, però rispecchiando magari sulla tipicità, teniamo ferme queste, ma cerchiamo di non inventarne delle altre che magari sono di quelle che servono un po' più a fare cassa che non a presentare i valori quelli buoni del territorio. Ci dobbiamo fermare qui, ti ringraziamo. Grazie. Per queste indicazioni. Ricordiamo il sito internet www.intavolatour.it, dove è possibile avere queste informazioni ma anche inserire le proprie esperienze. Esatto. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie, buona giornata. Ed eccoci adesso le nostre consuete notizie che chiudono la trasmissione. Qualche preoccupazione per il settore vitivinicolo è emerso durante l'incontro Vigneto Veneto Andamento e Previsioni Produttive 2013 tenutosi la scorsa settimana a Conegliano. Il bizzarro andamento meteorologico dei mesi scorsi ha favorito quasi ovunque allarmanti attacchi fungini ai vigneti. Una situazione che fa prevedere perdite significative della produzione, ha evidenziato il fitopatologo Michele Borgo. Il freddo primaverile ha anche rallentato lo sviluppo fenologico delle piante, che hanno germogliato circa 10-15 giorni in ritardo rispetto allo scorso anno. Le varietà precoci come Pino Grigio, Pino Nero e Chardonnay matureranno presumibilmente la prima settimana di settembre, circa una decina di giorni in ritardo rispetto allo scorso anno. Durante i mesi estivi fino a settembre, presso il centro sperimentale Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, in via Moceniga 7 a Rosolina, quindi per chi è in quelle zone in vacanza, sarà possibile visitare, previo appuntamento, i test estivi che si svolgono nell'azienda. Quest'anno sono disponibili in particolare le prove dei fiori di Pladenia, piante rampicanti sempreverdi, della quale vengono testate 70 varietà, e di Calibracoa, detta anche Petunia Nana, delle quali sono testate circa 140 varietà. Informazioni sul sito di Veneto Agricoltura o all'indirizzo email della dottoressa Giovanna Pavarin, giovanna.pavarin@venetoagricoltura.org. Si è tenuto il 20 giugno a Bologna il terzo incontro del distretto Altro Adriatico, di cui fanno parte Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, nel tema della pesca. Presenti gli assessori incaricati delle tre regioni e Pietro Gasparri della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole per la Pesca. All'ordine del giorno sono stati posti quattro punti fondamentali. La questione del fermo pesca biologico, proposto quest'anno dal 22 luglio al 1 settembre, la nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020 per il settore, la possibilità di istituire un marchio identificativo del pescato dell'Alto Adriatico e il pagamento del fermo pesca e la cassa integrazione. E per concludere, passiamo in Europa e parliamo di OGM. Sono rimasti in Europa solo 5 paesi, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, a coltivare gli OGM, con circa 129 ettari di mais transgenico piantati nel 2012, una percentuale diciamo irrisoria per la superficie agricola comunitaria. Questo è quanto rileva Coldiretti dal rapporto del Servizio Internazionale per l'acquisizione delle applicazioni nelle biotecnologie per l'agricoltura sullo status globale della commercializzazione di coltura biotech e OGM. Altri dati sono che la maggioranza degli Stati membri dell'Unione Europea vuole difendere le proprie produzioni territoriali da possibili contaminazioni con le colture geneticamente modificate, vista anche la forte contrarietà da parte dei consumatori, stimati in circa il 71%, che non vuole cibo transgenico. A livello mondiale, invece, il transgenico si afferma tra i paesi in via di sviluppo, mentre diminuisce tra i paesi industrializzati. Rimane in testa come coltivazione gli Stati Uniti, che continuano ad essere leader con 69,5 milioni di ettari coltivati con questo tipo di prodotti. Cina, India, Brasile, Argentina e Sudafrica coltivano assieme il 46% delle colture biotech totali. Con questo è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime settimane con la rubrica Quadrifoglio. Se volete ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.